Siamo in collegamento telefonico con le Miti Pretese per parlare di tre spettacoli che porteranno in scena a Roma al Teatro Vascello dal 23 al 26 aprile, Roma ore 11. Dal 27 al 30, Troiane, frammenti di tragedia e dal 2 al 6 maggio, festa di famiglia. Benissimo. Ben trovate! Buonasera, buonasera a te, buonasera a voi. Allora, Allora. parlerò di Roma ore 11 e poi passerò alle altre per gli altri spettacoli. Noi questo spettacolo l'abbiamo fatto 10 anni fa, anzi 12 ormai, al Festival di Ascanio Celestini e l'abbiamo fatto anche da te, mi pare in Sì, diretta, sì. nella radio, no? Sì. Parla appunto di questo fatto di cronaca da cui Elio Petri trasse un'inchiesta e De Santis poi fece un film. E per un annuncio per una segretaria arrivarono talmente tante ragazze che questa scala crollò e una morì e tante rimasero ferite anche gravemente. Ma questo fatto è rimasto un po' nell'immaginario, devo dire, romano molto ancora, ancora se ne parla, ancora ci sono signore che se lo ricordano. E niente, da questo noi abbiamo fatto questo spettacolo che è nato in una falegnameria del ghetto, grazie a una signora stupenda che si chiama Lidia, che ci ha aperto questo luogo meraviglioso. E quindi non è nato in un teatro ufficiale, ma proprio per questo è stato forse questo gesto così anche etico e simbolico, è diventato anche un punto di forza poi del nostro lavoro. Sì. Passiamo al secondo lavoro, ma torneremo su tutto. Mandracchia che ti parlerà delle Troiane, il Perfetto. secondo spettacolo che noi presenteremo. Ciao a tutti. Eccomi Ciao. qua. Allora, Ben dal trovato. 27 al 30 invece facciamo Troiane. Troiane si chiama Frammenti di tragedia, è tratto dalle Troiane, ma in realtà come nostro nel solito lavoro facciamo un lavoro anche proprio sulla drammaturgia. Abbiamo immaginato in generale Troiane dopo la fine della guerra di Troia, le Troiane aspettano di essere spartite dai greci. Verranno, ci ricordano tutte le guerre di adesso, i profughi, queste portate come prigioniere, come schiave, come concubine in chissà quale casa. Aspettano qual è il loro destino e le troiane normalmente è il coro e Ecuba che vedono passare poi tutte le altre donne. Noi abbiamo immaginato, abbiamo chiuso quattro donne, le quattro figure della tragedia che sono Ecuba, Andromaca, Cassandra e Elena. Abbiamo immaginato di chiuderle in una cella e aspettano in questa cella il loro destino. Ovviamente da fuori, tra l'altro, abbiamo una collaborazione alla musica di Francesco Santalucia che ha creato anche questo immaginario, diciamo, tra il reale e onirico, sonoro, molto importante, che chiaramente in modo claustrofobico ci tiene chiuse lì dentro. E immaginando delle relazioni che in realtà nel testo non ci sono, ma immaginando cosa queste donne, vittime delle guerre, poi in realtà cosa diventano fra di loro, i dialoghi, come addirittura la violenza subita a un certo punto può diventare violenza inflitta, perché il personaggio di Elena, che viene normalmente ritenuto la causa della guerra, in realtà poi diventa un po' un capro espiatorio, per cui le altre indebolite e violate dalla guerra, dalle sofferenze, dal dolore, poi se la prendono addirittura con l'altra donna. Immaginiamo questo in questa cella. I testi sono tratti poi da Euripide, da Seneca, Sartre, Ovidio, Omero stesso, per cui è anche lì un grande lavoro di cucito che ci piace tanto. Il terzo invece spettacolo dal 2 al 6 maggio è Festa di Famiglia e ti passo Sandra. Perfetto. Ciao! Ciao. Eccomi. Dal 2 al 6 maggio, come diceva Manuela, infatti faremo Festa di Famiglia, che è in realtà il nostro secondo spettacolo. L'abbiamo fatto 10 anni fa. Il tema è quello della violenza all'interno della famiglia e il lavoro di drammaturgia che abbiamo fatto insieme ad Andrea Camilleri, che ci ha dato degli ottimi consigli e anche un supporto morale, diciamo, un supporto teorico rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Tutte le parole e i testi li abbiamo presi da Pirandello. Abbiamo fatto una strana operazione, abbiamo inventato una storia originale, molto semplice, una festa sorpresa per il compleanno di una madre fatta dalle tre figlie e abbiamo sceneggiato Pirandello. Ogni personaggio attinge a 3, 4, 5 diversi personaggi di Pirandello. Poi chi conosce Pirandello magari ritrova la figliastra, ritrova Mommina, ritrova Donata, e chi invece non lo conosce poi vede una storia autonoma. Sì. Originale. Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro Pirandello, cioè noi cercavamo proprio quello, volevamo parlare di questo tema e cercavamo però un filtro poetico, uno scrittore, non qualcosa di troppo contemporaneo, di troppo legato al contemporaneo. Quindi abbiamo cercato e abbiamo visto che in Pirandello il tema è trattato in mille modi diversi e con una grande profondità e a volte anche una grandissima modernità. A volte è proprio la lingua di Pirandello, noi diciamo per il modo in cui si recita, ci rimane un po' lontana, un po' antica, invece il tentativo è stato quello di cercare di portarlo all'essenza. In realtà è una lingua meravigliosa per essere recitata. Sì, sì, sì. Ora io per chi ci ascolta farei anche un breve excursus sull'esperienza Miti Pretese. Chi di voi vuole parlarne? Manca Maria Angeles, che ora ti passo, che ti parlerà proprio di questo. Ok. Ecco. Eccomi qua. Ciao. Ciao, ciao. Di che cosa ti parlo io? Dicevo, per chi ci ascolta, racconterei anche e brevemente l'esperienza Miti Pretese. Sì, allora, noi siamo tutte attrici diplomate all'Accademia, anche se in anni diversi, quindi diciamo che dal punto di vista della formazione abbiamo un passato comune nel bene e nel male. E casualmente, nel senso, tutte quante stavamo lavorando in quel periodo, chi con Ronconi, con altri registi, abbiamo sentito, anche se in lontananza, ma vicine, nell'intento, il bisogno di ricavarci uno spazio per raccontare un femminile diverso rispetto a quello che ci trovavamo quotidianamente a recitare, a portare in scena, senza dare giudizie, però non ci riconoscevamo in quel femminile che veniva raccontato e come veniva raccontato. Quindi questo è stato il primo passaggio, abbiamo cercato una drammaturgia che potesse parlare della donna in un modo diverso, non soltanto come madre, moglie, amante, cioè in funzione di un maschile, ma una donna che potesse parlare di filosofia, di lavoro, di tutte le altre tematiche di cui parlano i testi al maschile. E così è cominciato, alla fine poi arrivò Paola Petri che ci propose questo testo, Romore 11, che parla appunto del lavoro, di un inizio, di un cambiamento della donna nei confronti del mondo professionale del lavoro e delle difficoltà che ha trovato e che non sono, ahimè, tanto cambiate. E lì è cominciato tutto. Facciamo un tipo di lavoro molto particolare perché è sia la drammaturgia che la regia fatta a quattro mani, a otto anzi, e quindi questo è per il panorama teatrale italiano è qualcosa di un po' diverso. La democrazia è difficile in generale, a teatro ancora di più, è faticoso ma molto molto, cioè ti dà molta soddisfazione e siamo ancora qua. Ecco, in breve questo. Okay. Ti ho detto tutto? T'ho detto tutto? Sì. Senti, avevate in mente una grande chiusura? Eh beh sì, sei pronto? Sì. Vai, allora noi partiamo, abbiamo la nota, ecco. È stato bellissimo. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Abbiamo sfumato alla fine. Sì, perché non sapevamo quanto. Sì. Allora, io ricorderei l'appuntamento, questo triplice appuntamento a Roma, al Teatro Vascello, dal 23 al 26 aprile, Roma ore 11 di Elio Petri, dal 27 al 30 aprile, Troiane, frammenti di tragedia, da Euripide ma non solo, e dal 2 al 6 maggio, festa di famiglia, da Luigi Pirandello. Un abbraccio, un saluto alle Miti Pretese a voi. E ci si vede a teatro. Ciao, ciao, ciao. correte, anche se ci sono solo delle giornate meravigliose, lasciate stare.